Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Beh, c'è un'avvertenza che devo darvi prima ancora della notizia di stasera, che è decisamente, insomma, come notizia di quelle curiose, ma che appunto potrebbe prestarsi, diciamo così, ad un equivoco. So che anche il nostro ospite ci tiene, allora ve lo dico subito. Nonostante quello che apprenderete stasera, per carità, continuate a spostarvi a piedi se ne avete l'abitudine, e se non ce l'avete magari prendetela, dato che può farvi solo del bene. Perché questa avvertenza? Beh, ce lo spiega subito Alberto Minetti, professore di fisiologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Milano. Buonasera Minetti. Buonasera. Allora, qual è questa notizia che addirittura mette in forse la sana abitudine di andare in giro a piedi, sana e scarsamente anche applicata, direi? Abbiamo comparato le emissioni di CO2 di un'automobile ibrida commerciale del giorno d'oggi, ce ne sono tante, con quattro soggetti a bordo, con le emissioni che questi stessi quattro soggetti potrebbero produrre correndo in città. Ovviamente tutto questo, comparazione, viene fatta per tragitti in città, e il risultato finale è quello che, meno male, una di queste automobili ibride del giorno d'oggi innovative emettono meno CO2 dei quattro soggetti che corrono. Cioè dal tubo di scappamento dell'auto ibrida esce meno CO2 che dai quattro tubi di scappamento, chiamiamoli così, dei quattro corridori. E il nostro tubo di scappamento, come dire, la bocca dal quale mettiamo CO2, la somma delle CO2 di questi quattro corridori sarebbe superiore a quella prodotta dal veicolo ibrido. Esattamente. E questo è un dato davvero sorprendente. E allora approfittiamo, partiamo da questo dato per dire un po' di cose. Tanto per cominciare, che cosa vuol dire essere ibridi? Perché il lato divertente è che in un certo senso il confronto fra l'auto ibrida e l'essere umano è un confronto tra due veicoli ibridi, perché anche l'essere umano è ibrido. Cominciamo dal veicolo. Il veicolo ibrido è un veicolo che non utilizza solamente una forma di energia. Diciamo che, tra virgolette, se possiamo dire così, si ciba di una sola forma di energia. Noi nell'auto ibrida inseriamo solamente benzina, ma quello che succede nel movimento della vettura è il fatto che durante le frenate, per esempio, parte dell'energia di frenata viene immagazzinata sotto forma di energia elettrica e immagazzinata in una batteria. Perché si fa questo? Molto semplice, perché dopo, quando si vuole ripartire dal semaforo dopo aver effettuato quella famosa frenata che ha immagazzinato energia, si utilizza parte di quell'energia immagazzinata per poter riaccelerare e ripartire. Praticamente è una conversione tra energie, prima metabolica della benzina in energia di movimento, poi dall'energia di movimento in frenata a quella elettrica, e poi di nuovo da quella elettrica in riaccelerata del veicolo. Ecco, e quindi quello che rende appunto ibrido il veicolo è la presenza di una seconda forma di energia temporanea, per così dire, a bordo del veicolo. E che cosa rende ibrido a modo suo un essere vivente? In che modo noi accumuliamo energia, per esempio, nella corsa? Lei tra l'altro è un biomeccanico, anche io non l'ho detto, ma lei si occupa proprio di studiare per esempio la meccanica dello scheletro umano, della locomozione e così via. Soprattutto la biomeccanica della locomozione umana è proprio il nostro campo, ed è per questo che non è un caso che una ricerca di questo viene in mente a noi. Ma tutti gli esseri umani, animali, quadrupedi, ma diciamo in generale gli esseri viventi, un po' tutti, capita più o meno a tutti. Nelle forme locomotorie lo scopo finale è quello di risparmiare energia, perché è un criterio generale di tutte le specie. Ora è chiaro che sia camminando che correndo noi convertiamo parte dell'energia del movimento in un'altra forma di energia intermedia, che può essere utilizzata anche in quei casi, nelle decelerazioni e accelerazioni, per evitare di doverci rimettere nuova energia fresca. E quali sono i nostri accumulatori biologici? Ecco, dunque, nella corsa, per fare l'esempio che è più calzante per quello che discutiamo oggi, a ogni atterraggio del nostro corpo nel contatto con il terreno, noi stiamo in quel momento decelerando, cioè il nostro centro di massa in quel momento, la sua velocità sta diminuendo, però non diminuisce semplicemente dissipando questa energia cinetica nel nulla o in calore. In realtà parte di questa energia viene immagazzinata nella estensione dei tendini, che funzionano da elastici. Questi tendini, che funzionano da elastici, immagazzinano temporaneamente nella prima metà del contatto l'energia cinetica in energia elastica, sì. E questa energia elastica viene poi restituita nella seconda metà del contatto per spiccare il salto successivo. In questo modo i muscoli consumano meno in generale per produrre un movimento che permette di poi mantenere la velocità media della corsa costante. Ecco, i veicoli ibridi, già quelli attuali, consumano un pochettino di meno di 4 persone che corrono. Quindi che cosa succederà adesso quando arriveranno le prossime generazioni di ibrido, quelle plug-in e addirittura le automobili elettriche che sono ancora più efficienti? Ma dunque, nella nostra ricerca avevamo posto dei limiti. Allora, il primo limite era quando la tecnologia delle automobili avrebbe battuto 4 uomini che corrono, e questo è già stato battuto, ma in tempi proprio recenti, recentissimi, ed è il motivo della pubblicazione della ricerca recente sulle scienze italiano, che è l'Università Scientifica Americana. Invece il secondo limite, che è ancora più basso, è 4 umani che camminano. Quando avremo un'automobile che consuma meno di 4 umani che camminano? Ce l'abbiamo già. In definitiva, in questo momento c'è una grande battage pubblicitaria sulle automobili puramente elettriche, sì, che chiaramente nel loro utilizzo non emettono nessuna CO2, certo, perché è tutto nella batteria. Però noi, per mettere energia nella batteria, abbiamo dovuto bruciare dei combustibili fossili. Ora, quello che succede è che un'automobile puramente elettrica si avvicina al costo di 4 persone che camminano e basta. Per cui anche questo secondo limite, diciamo, è stato raggiunto. Ne avanza un altro, che per il momento... 4 persone che dormono, no? No, 4 persone che vanno in bicicletta. Ah, beh, certo, certo. Perché 4 persone che vanno in bicicletta consumano veramente molto poco. Beh, meno male che almeno la bicicletta l'abbiamo salvata, no? Perché sennò qui saltavamo subito tutti in auto. No, senza dubbio l'abbiamo salvata. E direi di più, quando si riusciranno ad avere delle biciclette a frenata rigenerativa, saranno anche loro ibride e la cosa potrebbe diventare ancora più interessante. Beh, credo che non ci poteva essere conclusione migliore. Grazie Minetti. Ringrazio io lei. Arrivederci. È tutto, a domani.